24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il perdurare dell'incertezza sulla crisi greca, con l'accordo tra Stato ellenico e creditori che stenta ad arrivare. La cancelliera Angela Merkel in missione in Cina. Intanto volano le borse europee trainate dagli Stati Uniti. Bruxelles placa gli animi sul rischio forniture di gas, mentre l'Europa resta sotto zero. Tensione tra Italia e Germania su una controversa sentenza sulle stragi naziste, mentre un'altra compagnia aerea europea cade vittima della crisi. I colloqui sul secondo piano di salvataggio internazionale della Grecia sono molto difficili, così il ministro delle finanze ellenico Evangelos Venizelos. Anche per questo non si terrà lunedì prossimo la riunione dell'Eurogruppo, che dovrebbe valutare gli sviluppi della situazione ad Atene. L'incontro dei ministri finanziari dell'Eurozona potrebbe essere organizzato più avanti in settimana. Le ultime novità dalla Grecia affermano però che un accordo sarebbe ormai nella fase finale. Un'impressione confermata dalla Commissione europea, secondo la quale l'accordo tra settore privato e governo greco sul riscadenzamento del debito è vicino, anche se il negoziato resta molto difficile. La cancelliera tedesca Angela Merkel intanto è volata in Cina per chiedere l'appoggio di Pechino nella crisi dell'Eurozona. Da Pechino ha ottenuto sostegno al Fondo europeo Salva Stati. La Merkel ha incontrato il presidente cinese Hu Jintao dopo l'incontro con il premier Wen Jiabao ed è poi ripartita alla volta di Berlino. Un bilancio della missione da Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. I cinesi erano già convinti prima di fare l'intervento sull'euro. Si sono sempre lamentati che il quadro non era chiaro. Hanno bisogno di un euro forte perché devono esportare Europa, hanno bisogno di un'Europa forte perché non vogliono un mondo bipolare, ma vogliono che l'Europa costituisca il terzo polo. Aspettavano da tempo che ci fosse una schiarita che non c'è. Però questa dichiarazione pubblica del primo ministro Wen Jiabao è fatta anche per spronare gli europei ad andare verso una soluzione finale. E naturalmente solamente la Merkel poteva ricevere questo onore. Teniamo presente che Monti, il governo Monti, ha dato una grandissima mano a questo, perché Monti sulla stampa cinese è dipinto in maniera veramente superlativa, cosa di cui io personalmente come italiano vado fiero. Era dei mondiali del 2006 che non c'era una situazione del genere. E credo che il nuovo governo italiano abbia decisamente influenzato questa scelta dei cinesi. I dati americani oltre le attese, in particolare la disoccupazione calata all'8,3% in gennaio, mettono le ali alle borse europee, che chiudono la settimana con l'ennesimo rialzo. Parigi e Francoforte guadagnano rispettivamente l'1,4% e l'1,6%, mentre a Milano il FTSE MIB, spinto dai titoli finanziari, avanza dell'1%. In attesa di novità dalla Grecia, il miglioramento oltre le attese del mercato del lavoro americano, con la disoccupazione all'8,3%, mette le ali alle borse. Così, spinti dai titoli finanziari e dall'auto, ieri i listini di Parigi e Francoforte hanno recuperato rispettivamente l'1,5% e l'1,6%, anche se la migliore è Londra, con un rialzo dell'1,8%. A Milano, che da lunedì ha guadagnato il 3%, il FTSE MIB è avanzato dell'1%, con BPM più 9%, che ha raddoppiato la capitalizzazione in 3 settimane scarse di contrattazioni. Brillanti anche Atlantia, più 5,5%, e il Banco Popolare, più 5,2%, con tutto il settore bancario. Fiat, meno 3,6%, paghi e realizzi dopo il rally dei giorni scorsi e chiude in rosso in decisa controtendenza con il segmento auto europeo. Ciò condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'Unione Europea non è in stato di emergenza per gli approvvigionamenti di gas, lo ha affermato Marlene Holzner, portavoce del commissario europeo all'energia Günther Oettinger, confermando la diminuzione delle forniture di gas provenienti dalla Russia in diversi paesi europei, tra cui l'Italia, meno 24%. E l'eccezionale ondata di gelo continua a provocare vittime in Europa e in particolare nell'est. La situazione peggiore continua a essere in Ucraina. Sono più di 120 le persone morte nell'Europa centro-orientale per colpa del freddo. Quasi tutti non avevano una casa o non avevano in casa il riscaldamento. In Serbia, per la neve, quasi 12.000 persone sono isolate in 15 villaggi. Le temperature, che in alcuni posti sfiorano i 30 gradi sotto zero, scenderanno soltanto a partire da domenica. L'Ucraina e la Polonia, i paesi più colpiti. In Ucraina 60 persone sono morte assiderate nell'ultima settimana. In Polonia, nelle ultime 24 ore, sono morte altre 8 persone per ipotermia, portando così il numero delle vittime a 37. È anche molto importante che i cittadini si facciano solidali, perché in un momento come questo la capillarità è l'unica cosa che può salvare delle vite. Ci dice così Alberto Bruno, a capo della Croce Rossa di Milano, la città in cui ieri sera è morto un clochard. Una regola, quella della solidarietà, che va bene sempre e ovunque. La neve e il gelo stanno rendendo difficoltoso il traffico nel centro Italia, strade chiuse in molte zone del Molise, che è una delle regioni in questo momento più in difficoltà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Neve venerdì anche a Roma, dove il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino sono stati chiusi per precauzione ai tanti turisti italiani e stranieri. Stragi naziste, Berlino vince il ricorso, bloccate le indennità alle vittime italiane. È terminato come era prevedibile il ricorso tedesco contro la richiesta italiana di indennizzare le vittime delle stragi naziste nella penisola durante la Seconda Guerra Mondiale. La Corte Internazionale dell'AIA, un organismo delle Nazioni Unite, ha ribadito che queste richieste sono in violazione dell'immunità internazionale ottenuta dalla Germania per i crimini del Terzo Reich. A 60 anni dalla fine della guerra, nel 2008, la Corte di Cassazione di Roma aveva riconosciuto ai familiari di alcune vittime italiane degli eccidi compiuti nel 1944 il diritto di chiedere indennizzi alla Germania. Indirettamente il Tribunale dell'AIA ha suggerito oggi agli italiani di chiudere una pagina di storia e di guardare al futuro. Vera Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. La crisi ai trasporti, ai fallimenti di Spanair ed Air Alps, si aggiunge l'ungherese Malev. Uno stop previsto, ci ha raccontato Gigi Donelli. Malev è un fallimento annunciato almeno da quando la Commissione Europea ha chiesto al governo ungherese di restituire il finanziamento indicato come dumping per sostenere la compagnia. Ecco, una situazione, quella della compagnia appunto magiara, da cui Malev il nome, che in realtà è una parte di una storia di crisi economica che abbiamo raccontato anche molto in queste settimane. Per quanto riguarda questo specifico, basta ricordare che proprio due giorni fa il tasso di disoccupazione in Europa centrale, nel paese dell'Europa centrale, è arrivato al 10,7%. Quindi Malev senz'altro, che è la compagnia di bandiera, lo è stato fino a qualche momento fa e poi si vedrà, è anche un simbolo di un paese che 11 anni fa sognava di essere il Puma cosiddetto dell'economia dell'Europa centrale e che poi progressivamente ha visto ridursi, perdere sistematicamente tutta una serie di attività. Quella della compagnia di bandiera è sicuramente un capitolo in questa storia. Ora bisognerà peraltro vedere quali Gigi, reazioni. Così improvvisamente, nel senso che Spanair ed Air Alps sono fallite anche queste dall'oggi al domani, hanno cancellato tutti i voli, però non erano delle compagnie di bandiera. Invece sentire che una compagnia di bandiera fallisce all'improvviso ci ricorda più storie italiane, magari ecco. Qualcuna del passato. Dunque sì, sono due storie diverse. Spanair l'abbiamo anche raccontato, era molto legato a un incidente specifico, Madrid, un disastro aereo. Il caso di Malev è proprio quello, se vogliamo, dell'economia ungherese nel suo complesso. In una serie di misure, appunto di gravami del debito, l'abbiamo raccontato molte volte in queste settimane. La grande crisi dell'Ungheria è anche legato alla debolezza del fiorino. Il fiorino continua a perdere potere d'acquisto e quindi perde forza rispetto all'euro e rispetto al franco svizzero, una moneta di riferimento in Europa centrale. Direi che in questo senso si inquadra anche la crisi della compagnia aerea. E a Londra un ministro si dimette, le accuse su una multa non pagata. Sentiamo. Sotto accusa per una falsa dichiarazione, il ministro dell'energia britannico si è dimesso sotto il tiro incrociato dei media e dell'opposizione laburista. All'origine una multa per eccesso di velocità. Per evitare di perdere punti della patente, il liberal democratico Chris Huhne, che si dichiara innocente, avrebbe chiesto alla moglie di accollarsene la responsabilità. Un imbroglio venuto alla luce dopo la separazione della coppia e che Huhne ha detto di voler chiarire in tribunale. Le dimissioni sono un colpo per la coalizione di centrodestra, l'alleanza tra conservatori e Lib Dem, poiché il ministro è un pezzo grosso del partito ed è stato anche considerato come un possibile leader in alternativa a quello attuale, il vice premier Nick Clegg. Ma dimettersi per una multa è soprattutto un ennesimo esempio della severità del rapporto tra etica e politica in Gran Bretagna. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. Antonio Tajani è uno dei commissari europei più conosciuti in patria. Questa è l'indicazione proveniente da una recente indagine condotta da Eurobarometro. In Italia il 40% degli intervistati ha detto di aver visto, sentito o letto recentemente di Tajani sui media nazionali. I risultati migliori di lui sono stati ottenuti solo dal finlandese Olli Rehn e dal maltese John Daly. Rafa Nadal è nel mirino del fisco spagnolo. Il tennista iberico, oggi numero 2 del mondo, avrebbe sottratto milioni di euro grazie ad alcune società fittizie con sede nei Paesi Baschi. Tra il 2005 e il 2009, dei 50 milioni che sono entrati nelle casse del giocatore, Nadal ne avrebbe dichiarati appena un quinto. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 ore in Europa. Un grazie come sempre a Daniele Teruzzi per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.